Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Dentro c'è grande spazio, il colpo di tacco e il Persheva trova il gol con Ben Sahar del 3-2. Ha rischiato il tutto per tutto l'Inter e incredibilmente l'Apoel Persheva va a riagganciare il Southampton e si va a giocare la qualificazione. L'Inter è ultimo e fuori con 3 punti e chiude un'Europa League che possiamo definire disastrosa. Credo che non possiamo avere queste due facce, perché credo che si sia vista un Inter nel primo tempo giocare molto bene, dominare il campo, rischiare pochissimo e creare tantissimo, e credo che era sufficiente continuare a fare ed avere soprattutto gli stessi atteggiamenti. Purtroppo invece, ripeto, abbiamo giocato troppo da individualisti nel secondo tempo e poco da squadra e l'abbiamo pagata a caro prezzo. Da solo, stavolta niente Rabone, pallone per Dzeko che calcia in porta con il sinistro e fa tripletta, 4-1 per la Roma, partita definitivamente chiusa. La squadra è una squadra bellissima, una squadra che partecipa, una squadra di bravissimi ragazzi. Io non ho mai allenato una squadra di bravi ragazzi come questa, una squadra unita, una squadra che è facile viverla dentro il lavoro, dentro la settimana. Il corner e Aduriz di testa questa volta trova il modo di battere la difesa del Sassuolo e porta in vantaggio l'Athletic Bilbao. La squadra ha un'identità e questo mi fa piacere e sono contento di questo, lo ha dimostrato anche in questa gara, nonostante abbiamo preso dei gol ingenui, nonostante abbiamo affrontato una squadra che in casa è forte ed è difficile da affrontare, ma siamo stati sempre in partita e va dato merito alla prestazione dei ragazzi. Rodriguez, palla che resta lì, Tomic corto, il suo disimpegno, Gary Rodriguez, la beffa di Gary Rodriguez, quasi a tempo scaduto al 93esimo, Gary Rodriguez fa 3-2. Comunque matematicamente possiamo esserci fuori, e purtroppo questo ci deve far ripensare tutte le partite che abbiamo davanti a noi, perché ci dobbiamo esserci preparati per una partita difficile, fuori, un viaggio anche difficile per garantire questa qualificazione, purtroppo. È un disastro, le nostre di Europa League. Black oggi, Friday. Oggi è il Black Friday. Giovanni Capuano. Oggi abbiamo grandi sconti per Pierluigi Pardo. Sì, Black Friday, che io da vero ignorante mi sono fatto spiegare. Ma che cos'è questo Black Friday? È quel giorno che viene dopo il giovedì in cui due squadre escono dalla Coppa. Quindi è nero. Quindi al centro commerciale dell'Europa League le nostre proprio in saldo. Pardo. È una parentesi nera fra la parola Europa. Sì. Assolutamente. Però possiamo andare avanti a giocare, siccome è il Black Friday, noi offriremo in questa ora e mezza con grandi sconti ben due sondaggioni per i tifosi dell'Inter e non solo. È da stamattina che mi dici, mi parli di Altonen e non mi hai voluto rivelare perché. Qual è la domanda? Vediamo dopo. Ancora, mi fai aspettare un'altra volta. Possiamo chiedere ai tifosi dell'Inter qual è la notte, la loro delusione europea che non riusciranno a dimenticare, perché secondo me quella di ieri sera, uscire da un girone così facendo 3 punti in 5 partite è il punto più basso della storia europea dell'Inter, almeno degli ultimi 5 anni. Chiediamola a Pardo, l'Inter torna ad essere un fenomeno da psicanalisi, Pierluigi? Beh, dal punto di vista della prestazione del girone sono d'accordo con Capuano, certo che poi sicuramente se guardiamo il livello degli avversari l'idea che l'Inter è stata eliminata in questo momento da ultima del girone con 90 minuti di anticipo è una roba da vergogna. Bisogna andarci piano con le parole, però direi che la parola giusta è vergogna, perché insomma questo tipo di andamento non ha nessuna giustificazione tecnica. Dal punto di vista della delusione dei tifosi, non lo so, ma penso che ce ne sia stata di più profonda, perché magari Lugano pur vincendo ieri probabilmente sarebbe stata eliminata, insomma non è una grande tragedia. Poi, no, però Pier, cioè noi dobbiamo dire che Maragnao, quello che nel secondo tempo ha fatto impazzire i difensori dell'Inter, veniva con le controfigure di quelle serie C brasiliana. Ma sì, ma Giovanni e aveva vinto da riserva semplicemente il campionato l'Inter thailandese. Non è scesa in campo, ma di che stiamo parlando? Non è scesa in campo nel secondo tempo dopo un buon primo tempo in cui conduceva 2-0, aveva la partita in pugno. È per questo che dicono che è un fenomeno da da psicanalisi collettiva, mentre ritengo che, e poi ne parliamo con calma, per la Roma, nel segno di Dzeko, che è ormai quasi un fenomeno paranormale, dovrebbe mettere, secondo me, la bandierina su questa Europa League come obiettivo stagionale. Pino da Roma, poi andiamo col traffico. Buongiorno Pino. Buongiorno, grazie per la convocazione. Dica. Allora, c'è da fare una cosa sola. Una cosa sola, dove? All'Inter. Zanetti. Che facciamo? No, li deve portare in ritiro fino a Natale, tutti. Non si esce fino a Natale. In prigione. In ritiro. Sì, in prigione, sì. Mandiamo tutti in collegio. Secondo, all'Inter ci vuole una persona interista, un mental coach dell'Inter, che gli faccia capire che la partita sul 2-0 non è vinta. Si segna, come il Barcellona. Il Barcellona non si ferma mai. Ho capito, così, ma deve funzionare così. 2-0 sul campo del Berceva, che non è il Real Madrid o il Barcellona. Dopo un buon primo tempo ti aspetti che la partita scorra in un certo modo. Invece entrano in campo le controfigure, gli ologrammi degli interisti e cambia qualunque cosa. Per questo che dico che è un fenomeno quasi da psicanalisi. 800 24 00 24, il numero verde, traffico. Tutti convocati. Siamo al top, ragazzi, siamo al top. Scegli Pantera col TH. Scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta... Tutti convocati. La spiegazione è che ci siamo disuniti. È che abbiamo smesso di giocare la squadra, abbiamo smesso di dare soluzioni ai compagni in possesso palla e abbiamo subito delle situazioni in fase difensiva che assolutamente dovranno essere analizzate e migliorate, perché abbiamo subito delle situazioni dove possiamo e dobbiamo e dovremo lavorare molto meglio. E siamo stati presuntuosi e non ce lo possiamo permettere. Queste le parole di Pioli dopo la partita. C'è chi ricorda che la figura, cioè che la peggior sofferenza è stata nei preliminari con l'Helsingborg. Col rigore sbagliato da Recopa al 90esimo. Oppure il 2-5 con lo Schalke, che stai leggendo anche tu i messaggi. Sì, sì, sì. 3-4-9-2-3-8-6-6-6-6. Possono fare meglio, secondo me. Possono fare meglio, tu dici. No, ma io trovo che, insomma, la parola forte usata da Pierluigi Pardo, cioè vergogna per l'andamento dell'Inter in questo girone. In questo caso, ovviamente, si tratta di vergogna calcistica, ma sia condivisibile, Pardo. Sì, certo, ovviamente, relativizzando le cose della vita, nel senso che poi alla fine... Ma sì, questo è evidente, altre, stiamo, no? parlando le vergogne pure sono altre, le vergogne sono le cose da delinquenti, quelle sono le cose... Però dal punto di vista sportivo e del rendimento, sì, insomma, cioè, siamo al massimo grado, secondo me, di fallimento, non credo che ci sia da discutere. Poi in Italia, ed è un malcostume, l'Europa League viene vissuta, lo sappiamo, un po' come una roba minore, sapete che la cosa non mi appassiona. Però di questo parliamo dopo, a proposito della Roma, perché io ho un'idea precisa su questo. Chiedo a Ciccio Colonnese, che saluto. Ciao Francesco. Buongiorno a voi, buon pomeriggio. Se condividi l'analisi di Pardo, cioè se è giusto parlare di una delusione storica, come dice Capuano, una delle peggiori della storia dell'Inter. C'è chi cita, sbagliando, Inter Bayern Monaco. Disastro, Pierluigi ha parlato di vergogna sportiva, vergogna, ma ci sta, no? Disastro, vergogna, insomma, disastro sicuramente è stata brutta per chi ha visto tutta la partita. È impossibile poter pensare che si riesce nel giro di mezz'ora, 35 minuti, a passare da una partita quasi perfetta a un disastro totale, dove non c'era niente che andava al posto di... E allora, ragazzi, siamo qua in tanti, spiegatemi come può succedere, a partire da te, Ciccio, che hai giocato per anni e hai frequentato gli sportatori. Succede perché nel calcio, nel momento in cui smetti di ragionare come hai iniziato a ragionare, perché l'Inter il primo tempo aveva iniziato a ragionare in maniera umile, in maniera ordinata, seguiva tutte le direttive del proprio allenatore, quindi si muoveva da squadra. Nel momento in cui uno della squadra non fa più quello e si sfascia tutto, insomma, nel momento in cui la squadra pensa minimamente nella testa, perché vinci 2-0 e perché pensi di giocare a calcio, sei presuntuoso mentalmente, che è una cosa mentale, è una cosa mentale che solo chi ha giocato su un campo di calcio si rende conto, perché è tutto questione di testa. Smetti di fare le cose che hai fatto prima al 110%, dopo un secondo dopo è il disastro, perché inizi a prendere il 2-1, poi inizi ad andare sotto in paura, poi sbagli il passaggio, poi il difensore non si fa più vedere, l'attaccante non va più a difendere come ha fatto prima, il centrocampista non aiuta, cioè, quindi di squadra perdi e poi ti trovi, come è successo, in un vortice che prende gli schiaffi e diventa veramente brutto per chi guarda dal di fuori, perché sembra veramente che sembra un'armata Brancaleone. La sensazione dal di fuori sembrava questa. E quindi ha ragione Pierluigi, ha ragione Pioli nel parlare di presunzione, certo, anche se non credo che sia l'unica componente. No, sì. Ma Pioli più di tutti si rende conto di questo, perché forse dall'esterno noi facciamo dei giudizi perché non conosciamo l'ambiente. Pioli ormai lo conosce, da 7 giorni lì, si è allenato con questa squadra, ha capito il posto della situazione e rende conto che questa squadra, che tutti diciamo dall'esterno, ha qualità tecnica, è una squadra fortissima, che c'ha giocatori sublimi, e è lì, però dopo, ragazzi, il campo dice che l'Inter quest'anno ha fatto su 14 partite di 13 partite di campionato ne ha perse 8, 9, non so, in Europa League, cioè, i risultati sono questi. Quindi cosa significa? Che la testa è la testa di una squadra presuntuosa, non è la testa di una squadra umile che pensa di essere il più forte di tutti, ma il forte deve essere sul campo, no sull'almanacco. Tutti d'accordo, ragazzi? Pardo? Sì, beh, è evidente, insomma, il primo tempo dell'Inter di ieri in qualche modo è un aggravante, perché dimostra che se la squadra scende in campo con un atteggiamento giusto, la partita la vince, qualora ci fosse il dubbio, no, sulla superiorità tecnica dell'Inter nei confronti dell'Apol Bersheva. Mm-hmm. E quindi da un certo punto di vista diventa un aggravante, fa ancora più rabbia. È una cosa, ripeto, secondo me non è la più clamorosa debacle, perché in qualche modo era nell'aria questa eliminazione. Sì, era già stata costruita prima. L'Europa League non è la Champions, e quindi nel cuore, nella testa, credo, dei tifosi e degli appassionati fa meno effetto, fa meno rumore, fa meno. Quindi questo però non è un attenuante, cioè comunque dal punto di vista della prestazione, ripeto, è uno dei risultati più sconcertanti della storia nerazzurra di sempre, perché il livello di quel girone lì era ampiamente alla portata, e invece l'Inter è uscita con un turno anticipo da ultima classifica. Io credo non ci sia nulla di cui stupirsi. Cioè, noi ne parliamo da quest'estate, tra l'altro con ieri siamo arrivati ai primi 500 giorni di Suninga alla guida dell'Inter. E io devo dire che se noi facciamo l'analisi di tutti gli errori, dagli errori tecnici, e anche ieri sera se ne sono visti alcuni incredibili tra Murillo, Carrizo, ma in questa Europa League ce ne sono stati tantissimi, e basta andarsi a rivedere i gol presi dall'Inter. Se facciamo l'elenco degli errori di tutti gli allenatori, noi dobbiamo dire che questa stagione, che sta andando così e rischia di finire a rotoloni come su un piano inclinato, è stata preparata da un'estate gestita malissimo, ma malissimo. Vabbè, per usare un eufemismo, e io trovo che poi io trovo però che poi i risultati siano conseguenti, cioè non mi stupisce nulla dell'andamento dell'Inter di quest'anno. Se parametri la buona partita nel derby con il calo di tensione inspiegabile di ieri sera, qualcosa comincia a non tornare. Volevo chiedere un'ultima cosa a Ciccio Colonnese invece. Non riguarda l'Inter ma la Roma. Io ho detto prima che la Roma, nel segno di Dzeko, la Roma che ieri sera ha dominato una partita semplice sulla carta, che è questa, tutte sono semplici ma poi bisogna andare in campo e vincerle, se sei d'accordo sul fatto che dovrebbe mettere la sua bandierina stagionale sull'Europa League come obiettivo massimo? Come obiettivo massimo? Obiettivo realistico, sicuramente insomma, è un po' più facile, nel senso che sono partite da dentro fuori dove la concentrazione puoi averla, in campionato puoi perderla, e quindi però anche in Europa League c'è delle squadre importanti, ma questo non c'è dubbio. Però io dico invece che secondo me la concentrazione deve partire dal campionato, non dall'Europa League, perché la Roma insomma ha fatto una buona prestazione ieri dopo che aveva fatto una bruttissima prestazione domenica in campo. Invece secondo me deve partire dal campionato, che deve essere una squadra, siccome è forte, è una squadra molto, cioè, qualità tecnica, insomma, viene anche la Roma super, come lì insomma forse ancora di più da centrocampo e attacco, e quindi insomma deve avere continuità, perché anche la Roma è una squadra bellissima a sprazzi, e dopo ha dei momenti che, come il secondo tempo di Bergamo che prende questo, come l'Inter ieri. Questo è verissimo, però ragazzi, parliamoci chiaro, per una squadra come la Roma ci possono essere la Coppa Italia o l'Europa League, perché io credo che per lo scudetto non ci sia nessun competitor rispetto alla Juventus. Però questo è un po' duro, ma però, mio pensiero. Però è un atteggiamento, secondo me, che sbagliamo, perché la Roma deve lottare fino alle ultime 2-3 giornate, poi la Juve lo vinca, va bene, che è più forte, però deve restare lì fino a 5 punti, 6 punti. È bravo, non è che si può mollare e essere subito a 9, a 10 e poi sperare di entrare nelle prime 3, perché diciamo che poi come l'anno scorso, se arriva terzi va bene, se abbiamo il preturno. È perché secondo me una grande squadra è quella che dice, vabbè, la Juve vince perché è più forte, però vince alla fine, diciamo, 5 punti, 6 punti, ma non che dopo siamo già a 10 punti, dove già la Roma, Juve... Secondo me, Ciccio, l'Europa League è l'obiettivo per le squadre che possono puntare all'Europa League in campionato. Cioè l'Europa League era l'obiettivo, è l'obiettivo della Fiorentina, secondo me. Giusto, va bene, che concordo. La Roma poi, ovviamente, concordo pienamente. Concordo pienamente. Seconda, ha la possibilità concordo pienamente. Certo, è ovvio che quando arrivi agli ottavi di finale, di finale di Europa League, cambia tutto, cresce la adrenalina, crescono anche le motivazioni, gli avversari, il livello degli avversari aumenta. È ovvio che vincere una coppa, quantomeno provare a vincerla, è difficile, questo è difficile. È difficile, ma è anche importante. Quindi ci vuole più rispetto in assoluto per l'Europa League, questo è indiscutibile. Ciccio Colonnese, grazie. Ci sentiamo. Saluto. Grazie, buon un abbraccio. Ciao, sentiamo Luca da Bologna e poi la borsa. Buonasera a tutti, grazie per la convocazione e per la compagnia che mi fate. Allora, intanto, da tifoso interista, sono contento di aver sentito Ciccio. E vi faccio solo una domanda, perché oddio, da interista ne abbiamo avute tante delusioni, ne avremo, penso, purtroppo, tantissime altre. Ma io mi chiedo, da ignorante, quando avevamo comunque quel fenomeno di Mourinho, aveva comunque con sé Baresi, Oriali e tutto. Io penso che a sto punto non sia più un problema di allenatore, perché comunque sono tutti dei professionisti, giocatori, nel senso che se stanno a giocare, sanno giocare. Secondo me, con tutto il bene che posso volere a Zanetti, credo che la dirigenza, come in qualunque altra azienda, dovrebbe cominciare a farsi mea culpa, perché a sto punto non penso che tutti gli allenatori siano diventati dei brocchi quando arrivano ad Appiano, piuttosto che i giocatori da professionisti per pagati in tutte le no, squadre. Solo, guardi Luca, però io però sono in gran parte d'accordo. Cioè, se arriva una proprietà e spende in 2 mesi 100 milioni di euro per 3 giocatori, non compra un regista, non compra un difensore centrale, non compra almeno un esterno, e sono lacune che erano evidenti, tanto che Ausilio l'ultima settimana di mercato ha provato a prendere Lichtsteiner dalla Juve perché avrebbe fatto fare un salto di qualità all'Inter, e stiamo parlando di Lichtsteiner, non di Neymar o Messi, però sarebbe stato un giocatore assolutamente funzionale. Facciamolo questo ragionamento, facciamola questa analisi, perché noi abbiamo passato mesi in cui è stato raccontato che il male dell'Inter era quello che doveva andare via, poi quello è andato via e gli altri più o meno sono naufragati tutti. Sì. Sì, detto questo, secondo me non ci sta il paragone tra quest'Inter e quella di Mourinho, non soltanto da un punto di vista dirigenziale o manageriale, ma proprio da un punto di vista tecnico. Questo è fuorviante, Pardo. No, ma l'Inter, secondo me, la Gazzetta dello Sport l'aveva addirittura, se non sbaglio, messa come seconda squadra del campionato. Ma i pronostici sbagliano, perché l'Inter recupererà. Però non è neanche questa. Cioè che dal punto di vista tecnico questi primi mesi non abbiano funzionato, sapete che io ho difeso De Boer, ma ho difeso più per un fatto di principio che per un fatto tecnico. Per me De Boer ha fatto male, poi secondo me è un allenatore che se prendi devi sostenere di più. Sì, sicuro. Ma sicuramente l'Inter è sopra il par, cioè sta andando peggio di come ci si poteva aspettare, di come era giusto che fosse. Dal punto di vista tecnico è una squadra con delle lacune, ma è una squadra che comunque ha anche investito, che Candreva, Baneja, almeno diciamo, Mario sono troppi soldi, ma insomma voglio dire, non si può dire che sia una squadra scarsa in assoluto, quindi non l'abbiamo mai detto, mi pare. No, appunto, non l'abbiamo neanche mai detto della società, ma secondo me le responsabilità sono anche nel far funzionare le cose, nel senso nella disciplina generale complessiva, perché la società da un lato ha un compito importante, è quello di comprare i giocatori e di dare all'allenatore la rosa più adeguata, e dall'altra poi ha il compito di far sì che si rispetti, che ci sia un clima di un certo tipo, sì, certamente, dell'allenatore, ma anche della società. Ecco, questo l'Inter recente non esiste. Allora, ci fermiamo per la borsa, torniamo a parlarne anche di altri argomenti, tipo io resto convinto del fatto che questa Roma possa avere come obiettivo realistico l'Europa League. Secondo, sono convinto che dopo aver visto la partita di ieri sera che Paulo Sousa a Firenze non si senta più così tanto a suo agio come potrebbe sembrare. Borsa. Tutti convocati. Tra poco, nuove notizie. Pigia, coso rosso, grazie. Bologna-Venezia, viaggetto romantico, io, lei e il sistema Digital Radio. Sentiamo la radio? Certo, ma ascoltiamola in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto grazie all'autoradio digitale. Niente effetto salto, nemmeno se ti sposti per chilometri, perché il sistema Digital Radio non ti lascia mai. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Entra in Cariparma, scopri Crédit Agricole. Nuova meta, stessa passione. Allora, Giovanni Capuano sempre qui con me, che deve ancora spiegarmi il mistero Altonen con cui mi tortura, con il quale mi tortura da circa due ore. Pierluigi Pardo collegato, Giuseppe Francesco in linea, due ascoltatori, 800240024, ma prima voglio dirvi questa, voglio leggervi questa. Potrebbe esserci un clamoroso colpo di scena nella trattativa per la cessione del Milan. Berlusconi ha incontrato ad Arcore Mister, il famoso, famigerato Mister B Touchball. Così ha riportato il Corriere della Sera. Il patron rossonero ha incontrato nella sua villa ad Arcore, appunto, il broker thailandese, noto per essere stato vicino in passato all'acquisizione del 48% del Milan. Affare che poi non era mai andato in porto. Touchball è rimasto da queste parti circa 4 giorni, quindi pare abbia incontrato Berlusconi ad Arcore e poi sia tornato a casa sua. Non so quanto ci sia di quello che è certo è vero, che l'affare si ingrossa. L'affare si ingrossa. Le autorizzazioni non arrivano, pare non ci siano nemmeno tutti i soldi. E dall'altra parte pare Berlusconi ci sia la volontà di Berlusconi di tenerselo al suo giocattolo, un altro tassello. Dimmi. Pare che ci siano anche altri che si stiano muovendo e stiano bussando alla porta dei finestri. Vabbè, non manca molto al 13 di dicembre. Allora, Giuseppe, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti voi. Dica. Ascolti, io volevo puntualizzare una questione un pochino diversa di calcio e non. Allora, sono un papà, porta il figlio, un ragazzino che ha vissuto i tempi di Mourinho, quando erano 5, 6, 7 anni, l'Inter che vinceva, bla bla bla, e si innamora dell'Inter. Lo porto tutte le domeniche allo stadio per vedere la partita, perché è piccolo, non può. Ieri sera era davanti al televisore insieme a me, che piangeva, tremava. Cioè, vedi, ma sti ragazzi che guadagnano milioni di euro, ma si rendono conto o no? Beh, ma lei le ha spiegato che è la bellezza di essere interista. No, sì, no, è un fascino di questo periodo è un dramma. Oppure sì, ho capito, oppure si può anche spiegare che il Milan prima di Van Basten aveva Joe Jordan, Posso citare. Sì, no, un'ultima cosa, mi perdono, un'ultima cosa e dopo fate i vostri commenti, vi ascolto per radio. E poi la chiave di lettura della partita, la supponenza del signor Handanovic, che si fa ammonire gratuitamente per guadagnare 3 secondi. E poi nel secondo fallo va fuori, non pare il rigore, perché probabilmente il rigore lui l'avrebbe parato. Cioè, a parte tutta la squadra, ma questa è l'economia della partita. Se il problema dell'Inter è Handanovic, ragazzi, cioè, sì. Ci sono anche tifosi dell'Inter che pensano sia Icardi il problema. Non mi sembra la cosa più geniale dire che Handanovic fa fare rigori, visto che il secondo para rigori della storia è campionato con Lucas. No, ha detto il contrario, che l'avrebbe parato. Ha detto che l'avrebbe parato. E quindi il suo grande errore è stato farsi espellere. Questo sicuramente, però Handanovic è un pararigori, poi è ovvio che è più probabile che un rigore comunque entri, anche se Handanovic è uno specialista piuttosto che lo pari, però insomma Handanovic è uno di quelli che ha un'alta percentuale di rigori neutralizzati. Sul discorso di prima del bambino cito Luciano Spalletti, che non svelo niente di terribile, forse l'avevo anche già raccontato in quella partita Napoli-Roma, no? Con il bambino, il piccolo Salvatore che piangeva, inquadrata alla fine, che poi abbiamo invitato a Premium, è stato invitato anche da Malagò, e Luciano mi ha detto una cosa che è giustissima, cioè che bisognerebbe anche invitare quello che lì vicino si mangiava un panino, perché comunque la vita va avanti. Quindi per carità, i giocatori si devono rendere conto della responsabilità, però noi dobbiamo, secondo me, faccio adesso un po' la paternale senza essere padre, pure far capire che per quanto sia brutto perdere, per quanto sia meravigliosa la malattia del tifo, voglio dire, ci sono dei limiti, ci sono dei limiti. Verrebbe proprio da abbracciare il figlio del nostro ascoltatore, sì, e dire non ti preoccupare, perché grazie a Dio, cioè, i problemi sono altri e le gioie sono altre, per cui capisco la delusione, ovviamente ieri è stata brutta, però insomma la vita va avanti. Ma sì, questa, e poi sicuramente suo papà sa chi è Mikael Tonen. Allora, adesso l'ho scoperto anch'io. E perché la storia di Mikael Tonen c'entra con la figuraccia dell'Inter di ieri? Magari lo sa anche Riccardo Trevisani. Riccardo Trevisani è molto Altonen. È molto Altonen. Ma perché Altonen c'entra con la figuraccia di ieri dell'Inter? Dovete darmi questa risposta. Ma io passo parola a Pardo, che peraltro è onnisciente. È anche Brustonen, Trevisani. Ricaviamo Ciccionen, però. Carlo è Pelatonen. Tu sei un fessacchione, Quindi devi diventare padre, ci hai detto questo scoop in diretta. No, grande, Pierre. No, ho detto solamente questo. Ho detto però che quando c'è stata quella famosa scena di Napoli-Roma, grande affetto per piccolo Salvatore che piangeva, ma io mi sentivo molto complice del bambino che vicino smagnava il panino. Era questo. Più semplice identificarti. Sì, no, sì, però sì. Giusto per dire, Mikael Tonen, che è l'uomo che nell'87 segnò un gol a Zenga a San Siro in una delle memorabili notti europee dell'Inter contro il Turun Palloseura, partita tra l'altro che poi l'Inter ribaltò al ritorno, nella sua lunghissima carriera, sapete con chi ha giocato per un anno? Con l'Apoel Beersheva. Ah sì? Ma pensa, 1993-94, 11 presenze e 0 gol. Mi fai aspettare 3 ore per dirmi sta roba qui. Riccardo Trevisani, io invece voglio attraversare il fiume nerazzurro, poi ovviamente ci ritorniamo con un sacco di ascoltatori, per guardare in casa di altre due. Una è la Roma. Sono stato fortemente criticato dal mio amico Pardo e anche da Capuano e anche dagli ascoltatori, perché ho detto che, visto che in campionato, cioè, parliamoci chiaro, non vincerà lo scudetto. Non vincerà lo scudetto. Non sarebbe male vincere l'Europa League. Bravo, mettere la bandierina sull'Europa League. Io non solo sono d'accordo, ma proprio sottoscrivo e condivido. Io penso che una stagione da magari. Beccate questa, Pardo. Beccate questa. No, ma io sono d'accordo, io sono un fan dell'Europa League. Fammi parlare, se no è inutile. Mi chiami, Pardo, per non far parlare, è inutile, no? Giusto? Giusto. Ragione. Volevo dire che una stagione. Allora, le squadre si costruiscono attraverso i successi. Se tu non vinci mai, ma fai sempre secondo e non alzi una coppa, considerai di arrivare secondo per il resto della tua vita. L'Atletico Madrid, che ha fatto male per anni, quando ha vinto l'Europa League, anche senza Simeone, ha cominciato a diventare una squadra capace di capire l'importanza dei successi. E da quell'Atletico Madrid, piccolo, con solo Forlán e Agüero e tanti giocatori abbastanza scarsi, è diventato l'Atletico Madrid che oggi conosciamo, che non sbaglia un colpo in Champions League, che fa 5 su 5, ha trovato un grande allenatore, una grande struttura, è diventato da un ambiente sfigato e perdente un ambiente forte e vincente. Io credo che la Roma abbia bisogno di vincere prima di qualsiasi altra cosa. Quindi Coppa Italia, Europa League, quarto posto, secondo me è molto meglio che secondo posto senza Coppa. Sai che sono d'accordo? Io sono totalmente d'accordo con Riccardo Trevisani, dato che tranne il quarto posto. Posso no, dire, però, alza argenteria, poi vediamo. Tanto va in Champions vincendo l'Europa League, quindi che ti frega di vedere? Appunto. No, cioè, beh, sì, il punto è che arrivi a metà maggio e non lo sai. No, ma io non sono d'accordo in assoluto, e sai che sono fan dell'Europa League e da sempre dico che è assurdo che le squadre italiane la sottovalutino. Poi non ho neanche capito, per esempio, nel caso dell'Inter, se sia stata sottovalutata o se sia stata invece una tragedia, a prescindere. Sono d'accordissimo sul fatto, mi piace molto questa teoria di Trevisani, mi sento la rubo, la dirò anche in due, perché è vero che bisogna costruire una mentalità da squadra vincente, ed è così raro per una squadra di calcio alzare un trofeo, fosse anche la Coppa Italia, che è importante. Siamo diventati negli ultimi anni tutti dei ragionieri, attenti ai milioni di euro, la qualificazione, di frutta quello, di frutta quell'altro, eccetera. Invece tornare all'essenza dello sport, poi è quello che vale per chi sta in campo, che è vincere o non vincere, alzare un trofeo o non alzarlo, questo è importantissimo. Io dicevo semplicemente che la Roma, a differenza per esempio della Fiorentina, che veramente ha come obiettivo l'Europa League in assoluto, o secondo me la stessa parliamo. Inter, che avrebbe avuto come obiettivo l'Europa League, la Roma secondo me ha la possibilità concreta ed è forse la favorita per il secondo posto. sì, va bene, ho capito Pierluigi, ho capito. Se arrivi secondo di un progetto è molto importante. Se arrivi secondo a 10 punti dalla Juventus, 11 punti dalla Juventus, che te frega. Cioè, quello che dico è che mentalmente la Roma dovrebbe focalizzarsi sull'Europa League. Ci fermiamo un istante per il traffico, ma torniamo subito e poi c'è l'argomento Fiorentina e lì ve ne butterò lì un'altra che penso io. Tutti convocati. Non si fa fatica, ragazzi. Nuova Giulietta Winter Edition. Optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta... Tutti convocati. Allora, Riccardo Trevisani per Luigi Pardo collegati, Giovanni Capuano qui con me, Francesco da Roma stia lì che adesso le passo la palla. Però prima voglio farvi sentire cosa ha detto Corvino sul fronte Fiorentina. Corvino a proposito delle parole peraltro ribadite ieri da Paolo Sosa relative a Bernardeschi, che ha tutti i diritti di ambire ad un grande club. Faremo di tutto per tenere anche Bernardeschi, perché siamo una società ambiziosa e vogliamo cercare di tirarne altri 10 Bernardeschi per poter essere di grande, non solo ambizione a parole, ma anche poi sul campo. E quindi, come lui ha detto, che vuol finire la carriera a noi, qui da noi saremmo contenti che lo facesse. Sono sicuro che quello che ho detto io lo pensa anche Sosa. Sosa, nel dire, usare quelle parole, voleva dare un altro significato. Io non credo volesse dare un altro significato, perché le parole sono chiarissime, sono state ripetute più volte. La mia sensazione, la dico brutale, ieri ne parlavamo anche con Benedetto Ferrara, è che Sosa stia facendo di tutto per rompere i ponti, per tagliare i ponti con la Fiorentina. Riccardo. Non ho veramente nulla da aggiungere a quello che hai detto tu. Lo penso da diverse settimane, anzi onestamente lo penso da gennaio dell'anno scorso, però avendo poi visto dal vivo, fatto anche qualche trasferta di Europa con la Fiorentina, non lo sento più. Riccardo Trevisani mi ha cascato. Sono sempre migliori. Sono sempre allora, migliori che se ne vanno allora, quelli che hanno il telefono di Pardo. Ditemi la vostra. Ditemi la vostra. Pardo Capuano. Ma io dico solo una cosa. Pjanic è stato venduto per problemi di bilancio. Spalletti lo sa Pjanic benissimo. Un minuto dopo che gli hanno venduto Pjanic, ha detto che qualunque giocatore della sua rosa, a partire da Paredes, è più forte di Pjanic. E lo abbiamo sentito anche prima, ha detto non ha mai allenato una Roma allora, così ragazzi, forte. Siete d'accordo sul fatto che ieri appunto si parlava della stessa strategia utilizzata ad esempio da Prandelli nel passato, dopo contrasti con la dirigenza? Siete d'accordo sul fatto che sempre brutalmente Paolo Sosa stia facendo di tutto per farsi cacciare? Pardo, tu ci sei, no? C'era che Pardo. Sono sempre i migliori che se ne fanno. No, non ho resistito. Sono d'accordo. Poi, secondo me, la realtà è un po' più sottile. Poi io sono in generale più sfumato, però sì. Quindi cioè, siamo... che qualcosa non funziona. Ma non funziona dal gennaio scorso e l'errore è stata la riconferma estiva, perché l'errore è un male, un buon allenatore. È un grande allenatore, ma non si prendono più, hai capito? Non si prende più con la dirigenza. Però bisogna sempre vedere le alternative, il salto nel buio. È facile che non sia la soluzione ottimale, nel senso che non ci sia più magari il rapporto che c'era qualche tempo fa, è evidente. Ma che questa soluzione sia peggio di un eventuale salto nel buio con un nuovo allenatore, io questo non lo so. Luigi, non sto dicendo che sia la soluzione ottimale, ti sto dicendo che questo mi sembra lo stato dell'arte. Intanto è tornato Riccardo Trevisani per commento e saluto. Ma sai, stavo dicendo un complimento. Dicevo, mentre non c'ero? Sì, ho detto sempre i migliori che se ne vanno. Grazie, sei carinissimo. Molto. Stavo dicendo che proprio si respira all'interno della società, e ricordo di essere stato proprio a Salonico quando Sosa disse ma Bernardeschi è confuso, quindi prima diciamo il gioiello di casa viene un attimo bacchettato, poi viene definito giocatore da altri palcoscenici. Cioè il clima è esattamente quello che descrivevate voi, una situazione nella quale la Fiorentina avrebbe voglia di cambiare, ma probabilmente dovrebbe spendere tanti soldi e, come diceva Pier, potrebbe essere un salto nel buio. Lui magari cerca altri lidi e altri stimoli e altre situazioni, perché è sempre rimasto pochissimo dovunque è stato, ma non riesce in questo momento a trovare casa. E quindi entrambi sono separati in casa, anche se poi il racconto è diverso, che quello che ci viene fatto credere è diverso, però abbiamo gli occhi per guardare e anche le orecchie per sentire. Bernardeschi deve giocare da un'altra parte, siamo tutti d'accordo a livello tecnico. E anche un minimo di esperienza per capire come va questo mondo. Come va il mondo? Io dicevo iniziando, per me non finisce mai la stagione, poi magari sbaglio e vengo sorpreso. Certo. Il primo momento di calo grave c'è il rischio che salti tutto al banco. Grazie Ricky, alla grazie prossima. A voi, ragazzi, grazie Riccardo Trevisani. Adesso io credo, chiedo pazienza a Francesco da Roma, ma è uno dei momenti più attesi della settimana, cioè quello della schedina di Pardo e Capuano. Siete pronti? Vai, vado. Vai, solo certezze, vai. Vai, solo certezze. Però segnatela, perché... sempre segniamo. Non è che la facciamo così tanto per... Su Twitter, dice Giorgio De Luca su così. Twitter. Ma certo, non è che facciamo così tanto per fare minchioni. Sì, vabbè, hai fatto 6. Allora, dai, zitti che devo partire, se no non ci arriviamo. Allora, me la fate fa. Torino-Chievo, domani alle 18. 1-1. Empoli-Milan, domani 20:45. 2. Oh, mi copi. Palermo-Lazio 2 X. Bologna-Atalanta X. Hai detto X? Sì. Ah. Cagliari-Udinese 1 2. Dopo un sospirone. Crotone-Sampdoria 2 2. Genoa-Juventus 2 X. Ah. Roma-Pescara 1 lunedì Napoli-Sassuolo 1 X. Infine, sempre lunedì, ore 21, Inter-Fiorentina 1 2. Ah, hai capito. Hai capito. Guarda. Ciao Pierluigi, sentiamo domenica. Comunque si vince col 10, Pier. E comunque, 6 non basta. E comunque abbiamo segnato tutto. Vengo da un 8 e da un 6, grande. Abbiamo segnato poi tutto. Io do anche delle suggestioni per gli scommettitori, perché è ovvio che Inter-Fiorentina è un po'... Fai tendenza. E quindi, ragazzi, i risultati li verifichiamo ovviamente martedì, perché sennò non... Ciao, perdone. Ciao Pier, sentiamo domenica. Allora, adesso andiamo con il GR. Giovanni Capuano rimane qui con me. Poi parleremo ancora di Inter, parleremo di basket, di Formula 1, di rugby, di nuovo di calcio. Insomma, più di così, che dobbiamo fare? GR. Tutti convocati. Con grande rispetto di Carlo Genta, che mi ha avvicinato alla radio come il Papa mi ha avvicinato alla Chiesa. Domenica, ore 14:30. Voice Anatomy, Radio 24. Non mancate, sarebbe un peccato. Parola di Bond, James Bond. Il segnale orario vi è offerto da... Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it. State ascoltando un programma offerto da... Entra in Cariparma, scopri Crédit Agricole, nuova meta, stessa passione. Tutti convocati. Allora, Giovanni Capuano, Francesco da Roma ci ha aspettati con tanta santa pazienza. Buongiorno. Buongiorno, salve, ma la pazienza non è un problema perché... Io sono nato nell'89, sono interista e ho aspettato praticamente 20 anni per uno scudetto. questa non è male, scrivi Giovanni, scrivi. Beh, è nel DNA degli interisti. Però hai aspettato solo 27 anni per la Champions, ci sono interisti che hanno aspettato 45. Ecco, sì, infatti. Allora, mo, scherzi a parte, due cose. Prima mi ha fatto ricordare l'ascoltatore di prima che parlava del figlio che ha visto soltanto l'Inter di Mourinho, eccetera. Io mi ricordo, a proposito di grandi delusioni europee, una finale di Coppa UEFA, perse i rigori contro lo Schalke 04, ero piccolino, è stata terrificante. Invece una considerazione... Ti ricordi me, anche un tale Edo Carrasco? Adesso mi metto un po' in del Barcellona? Edo Carrasco, figlio dei rifugiati politici cileni, autore del gol che eliminò l'Inter contro il Lugano. Contro il Lugano? Settembre 1995, 32esimi di finale di Coppa UEFA, andata 1-1 allo stadio di Cornaredo, come centro commerciale, ritorno 1-0, gol di Carrasco. Questa è per pervertiti, ragazzi, è l'anno dopo della UEFA con la Roma, tra l'altro, se non mi sbaglio. Sì, è vero, è l'anno dopo della UEFA con la Roma. Siamo alla perversione calcistica. comunque no, una considerazione volevo fare. Cioè, il problema che a me sembra di vedere, almeno diciamo, è una questione fondamentalmente di mentalità. L'anno scorso la Juve, fino a 2-3 settimane fa, aveva meno punti rispetto di quanti ne avessi avuti l'Inter quest'anno 2-3 settimane fa. E Graticola, Allegri, eccetera, la società l'ha seguito, la squadra l'ha seguito, non è successo niente. E tra l'altro la Juve era diversa rispetto all'Inter, veniva da una finale di Coppa Campioni, squadra molto migliore a livello tecnico, eccetera. Comunque alla fine Allegri ha resistito, la Juve ha resistito, hanno vinto lo scudetto e sono andati avanti. E hanno perso col Bayern anche un po' per questioni di, diciamo, di disattenzione di puntiglie. Qui non c'è praticamente nessun condottiero, non c'è nessuno che tenga in mano le redini né della squadra né della società. È per questo che poi l'unica persona che è riuscita a vincere veramente, non ci metti in mezzo Mancini perché erano anni particolari, però è stata Mourinho. Nell'eventualità un altro come Simeone probabilmente potrebbe riprendere più o meno le stesse orme. Io credo che questo sia il grande sogno proibito di ogni interista, no? Sì, però è anche il grande problema, uno dei grandi problemi, perché tu non puoi continuare a vivere le stagioni pensando all'allenatore dopo, al condottiero dopo. Per carità, cioè, quest'estate è stato fatto a De Boer un contratto che conteneva già la clausola di rescissione. È evidente che anche questo non è il migliore dei segnali che possa essere dato all'ambiente, a uno spogliatoio, a una piazza, posto che poi De Boer ha mille colpe, perché io l'ho sempre criticato e ritengo ancora che buona parte dello sfacelo di questa stagione dipenda anche dai suoi tre mesi alla guida dell'Inter, però poi le colpe più grandi sono di chi la stagione l'ha organizzata nella maniera che abbiamo detto prima, ed è ad esempio una proprietà che ritiene che l'allenatore debba avere scarsa voce in capitolo al momento del mercato, perché il discorso lo facevano con Mancini e lo fanno in generale come impostazione, affidandosi poi a consulenze di altre persone esterne alla società. Sì. E insomma, diciamo ragioniamo, perché noi abbiamo sempre parlato di quando ci sono state annate negative, la chiarezza non solo, manca, la abbiamo sempre manca detto è colpa di Moratti, è colpa di Berlusconi, è colpa di questa è una stagione che ha probabilmente a livello di fallimento un padre preciso. Questa poi magari imparano e dall'anno prossimo avranno grandi disponibilità economiche e anche grandi competenze. Ma soprattutto servono anche grandi dirigenti, secondo me, e serve anche una grande struttura societaria. Ma c'è Marione Boni. C'è Marione Boni, certo, adesso lo interroghiamo, ma prima Flavio da Bergamo. Si prepari con la grande delusione da tifoso dell'Inter. Da 1 a 10 quanto è incazzato? Flavio, europea, buongiorno. Tanto, vergognosi. Aspetta, fammi parlare con l'ascoltatore, Mario, vai, intanto vorrà parlare dell'Inter anche lui. Flavio, dica. Flavio? Sì, mi senti? Sì. No. Non mi sente? No. Sì. Pronto? Pronto? Sì, pronto. Sì, pronto, non sentivo. Avevo una domanda per Pardo, se era possibile. Pardo non c'è adesso. Non c'è, vabbè, la faccio a voi. Prima lui diceva che la Roma è realmente candidata ad arrivare secondo, io sono un tifoso della Roma. Però noi è anni che arriviamo secondi, a parte l'anno scorso, non è bello sentire che è realmente candidata ad arrivare seconda. Per noi sarebbe bello sentire che la Roma vinca il campionato, anche perché ha la potenzialità per farlo. Allora volevo domandare, quest'anno forse no, poi volevo domandare anche a voi che siete, appunto, ne sapete più di me di calcio, cosa manca secondo voi per arrivare primi per la Roma, tutto qua. Allora, alla Roma manca dell'argenteria da sollevare, ed è per questo che dico che l'obiettivo stagionale devono essere per la Roma la Coppa Italia e l'Europa League, perché il campionato non ha le potenzialità per vincerlo. Allora, da 1 a 10 quanto sei incazzato, Mario Boni? Tantissimo, ma il radioascoltatore, tu hai centrato il punto di quello che è la situazione del campionato italiano, dove è scarsissimo il livello e dove mentalmente siamo così mediocri da pensare più al terzo posto che porta soldi a mettere invece argenteria, come hai detto tu, in bacheca. Io da tifoso interista avrei puntato sulla Coppa, perché un conto è sollevare la Coppa, Coppa Italia, Europa, l'Europa Cup, l'Europa League, quello che vuoi, chiamala come ti pare, un conto è invece giocare per il terzo posto che non conta niente. Tu guarda le squadre degli ultimi anni, Napoli, a Roma, arrivano lì, prendono una legnata e vanno in Europa League. Quindi l'importante è vincere, alzare una coppa, perché il tifoso vuole alzare una coppa. E quello che ho visto io ieri dell'Inter, una cosa vergognosa, ma al di là della tristezza suprema dei giocatori in campo, veramente tristi, oltre a non correre tristi, ma la dirigenza, tu l'hai appena detto, ma cosa fa? qui si parla di Zanetti, che sì, il grande capitano, ma ricordiamoci che Zanetti avrà 50 milioni di euro in banca, quindi qualcosa deve dare pure dietro l'Inter. Ausilio, che fa? Che giocatore ha preso? Ha preso Contopia, che è un giocatore che forse nel Crotone non parte titolare. Abbiamo D'Ambrosio, Nagatomo, ha preso Banega, che sembra un fantasma. Abbiamo Gabigol. Gabigol, che se l'Inter fosse un'azienda pubblica, ci sarebbe la magistratura dentro. Oh, l'ha presa benissimo. Mario Boy non è tanto arrabbiato. Fammi parlare, 25 milioni di euro, ha giocato 7 minuti contro il Bologna. Ma di cosa parliamo? No, 29 e mezzo. 20-30 milioni, abbiamo due giocatori che non partono titolare nel Crotone. Questo è stato di fatto, e io sono incazzato come tifoso interista. Ma chi abbiamo preso in questi anni? Chi abbiamo preso? Avevo capito che eri. Allora, siccome siamo andati a giocare in Israele, vergognosi. Siamo stati secondo tempo, neanche una squadra di promozione corre meno di loro. Che qual è il problema? Che abbiamo la colpa di tutte di Mancini, ok, siamo d'accordo. Gli altri c'entrano poco. Ma chi prendono? Questi dirigenti, che giocatori prendono? Quindi è colpa di Mancini. Cioè, il 24 novembre è colpa di Mancini. Fino a quando sarà colpa di Mancini? Dimmelo, che ti chiamiamo quel giorno. La programmazione è vergognosa, ok, della società. Ma allora Di Mancini, che ha detto alla fine, nonostante avesse 4 milioni e mezzo di euro, ha detto no, non me la sento di allenare, ed è andato via. Ma i dirigenti, ma chi hanno preso? Condogbia, Gabigol, Banega, D'Ambrosio, giocatori che anche Perisic ci metto. Sì, però Mario, perdonami, allora, sì. Banega ha vinto due Europa League consecutive, sì. Tre Europa League, sì, consecutive, sì, con il Siviglia, quindi è nazionale, sì, argentino. No. Non mi venite a raccontare che Banega è un giocatore scarso. No, c'era buono, qualcuno, però... c'era qualcuno che secondo te è il responsabile di tutto, che quest'estate diceva che Banega andava benissimo, ma in mezzo serviva un altro. Lui diceva Yaya Touré, secondo me sbagliava, però alla fine la lettura del problema c'era. Ma oggi siamo al 24 novembre e diciamo la stessa cosa. Che l'allenatore, la società ti mette a disposizione i giocatori, e tu, che sei un allenatore secondo più pagato d'Italia, devi allenare quei giocatori. Banega probabilmente è un ottimo giocatore nel Siviglia, in Argentina bene, nell'Inter riesce a giocare male perché è strutturata male. Allora la domanda è: chi fa la squadra all'Inter? Chi prende i giocatori? Che ci stanno a fare lì Ausilio, Zanetti e quell'altro Gardini? Che fanno lì? Allora ci vado io, sono più bravo io a fare la squadra. Ma che ci stanno a fare questi qui? Che ci stanno a fare? A dare la risposta? No, per favore, non so, voglio sentire le stronzate che dicono puntiamo alla Champions, per favore, da tifoso interista, non me lo fate sentire una dichiarazione del genere. Per un minimo, perlomeno rassegnarsi le dimissioni. Guardate, abbiamo fatto un sacco di stupidate, ci scusiamo con i tifosi interisti, perché chi fa la squadra all'Inter? Chi la fa? Questo è il punto interrogativo. Ma te sei contento dei cinesi in questi primi, prima ho detto sì, 500 giorni, ho sbagliato, sono 150. Ma non è il problema, che i cinesi devono capire anche la mentalità italiana, che già noi italiani abbiamo difficoltà a capire, perché se noi siamo godiamo di più arrivare terzi che vincere la Coppa, io comincio a dire ma che la mentalità italiana è un po' cioè una stortura, cioè, perché ti conviene tifare la Juve fra un po'. Ma la Juve ormai gioca col sigaro in bocca con la primavera, perché certo. la società, e poi prende i giocatori funzionali al progetto. La domanda che io faccio, ma non solo per l'Inter, anche le altre squadre che tutti lottano il terzo, ma quale terzo posto? Giocate per vincere, vincete la Coppa Italia, vincete l'Europa League, vincete qualcosa, il terzo posto, ma non vinci nulla, voglio dire ai giocatori e alla società, che non vinci nulla col terzo posto, nulla. Giochi lì, fai la Champions League. Sono d'accordo, no, ma sono d'accordo. Giochi per i soldi. Senti, Mario, è un po' la situazione che succede nel basket, no? Dove ci sono comunque grandi corazzate e le altre prendono una grande corazzata. Nei vari campionati ci sono una, due, in Turchia qualcosa di più, grandi corazzate che però lasciano il vuoto dietro. Ieri sera Milano ha dato la sua dimensione europea perdendo in casa con il Fenerbahce. Ma guarda, tornando alla prima domanda, la considerazione che hai fatto, si andrà verso di più a un NBA europea, cioè dato che i campionati locali, nazionali, sono sempre più a vantaggio di alcune corazzate, chiamano così, ovvio che il passo successivo sarà un NBA europea. Quello di Milano è che a mio avviso avrebbero dovuto concentrare di più le risorse su meno giocatori e più magari funzionale un progetto, anche se Milano è indubbiamente un'ottima squadra, non è facile giocare, non avere un alto minutaggio, perché per esempio esempio ieri ho visto Abbas che è partito molto bene e poi non ha giocato più, così come Pascolo. Anche l'allenatore ha difficoltà, che deve proteggere alcuni giocatori e deve farli rendere al massimo un po' tutti. Io forse, ecco, questo avrei fatto di Milano, che è un'ottima squadra, avrei concentrato di più prendendo giocatori più funzionali, per esempio un Yudo, quello che gioca lì a Fenerbahce, ecco, magari prendendo non prendendo altri giocatori, ecco, avrei concentrato le spese su altri. Grazie Mario, sentiamo presto, fatti passare la rabbia. No, io sono incazzato, sono incazzato. Posso salutarti con un numero, Mario, così ti tranquillizzi. 183 è il numero della posizione del ranking UEFA dell'Apoel Beersheva. Ciao. 183. E tu ieri sera hai perso 3-2, vergogna. Umiliati, ci hanno asfaltato il secondo tempo. Sembravamo i giocatori di subuteo, quelli dell'Inter, fermi. Ciao Marione, ciao, grazie. Ciao. Io adesso cambio rapidamente argomento e saluto il professor Giorgio Terruzzi. Ciao Giorgio. Buongiorno, ciao. Buon pomeriggio a tutti. Bello che l'assassino sia sull'ultima pagina del libro, del romanzo. Non capita spesso negli sport di cui stiamo parlando, calcio, basket, eccetera, almeno per quanto riguarda il fronte interno. In Formula 1 sì. Sì, siamo qui. Finale... è molto più incerto del previsto, cioè di quello che si poteva pensare quattro corse fa, ma insomma l'ultima gara decisa in pista è sempre una lotteria, al di là dei vantaggi con i quali si arriva lì. Io ti faccio sentire cosa ha detto Rosberg. Bellissima la situazione, di essere qua arrivato con il vantaggio nei punti e di lottare qua per il mondiale, fantastico, veramente sono mega motivato. Non è mai facile di fare un weekend di Formula 1, e non sarà diverso questo weekend, però quello che provo a fare, sono qui in questa situazione per un certo modo che ho fatto tutte le gare quest'anno, e questo è veramente di tenere le cose molto semplice e vedere questo Gran Premio come uno come tutti gli altri e metterci tutto per provare a vincere la gara. Sì, parole di circostanza. Posso confessarti, Giorgio, che insomma Rosberg meriterebbe sportivamente questo titolo, ma io faccio il tifo per l'irregolare Hamilton. Insomma Hamilton ha tutto per essere tifato, infatti lo è, perché insomma devo dire che però che quest'anno, perché adesso lui sta facendo un finale di stagione strepitoso, poi è un personaggio, però ha fatto anche delle sciocchezze, ha avuto delle pause abbastanza clamorose. Cioè dentro questo finale qui ci sono, c'è il rush di Hamilton, che è brillante quanto lo è lui quando sa fare, quando si mette a fare. Però ci sono stati dentro anche quest'anno delle distrazioni, dei momenti un po' opachi, sui quali uno come Rosberg, che impara, che si mette lì, che ci dà dentro, che fa una vita d'inferno di fianco a questo qui, io l'ho detto già tante volte, lo ripeto, cioè la canzoncina "Vorrei vedere un altro al posto mio", credo che molti farebbero delle figuracce nella posizione di Rosberg. E ha fatto un gran campionato. Il problema è che adesso io sono sempre dell'idea che uno vince i mondiali vincendo, non calcolando. Sì, sì. Quindi la prima giornata a Abu Dhabi segna un passo delle Red Bull pazzesco, e sono due macchine. La Ferrari non sta andando male, basta un niente. Io poi non dimenticherò mai il mondiale che perse proprio qui Alonso, nel senso che chi è davanti fa corsa di testa e non ha pensieri, prova a vincere, Hamilton lo sa fare, poi dietro succedono tante cose, possono succedere tante cose. Cosa ne pensi di queste parole di Lewis Hamilton, del complottone? Tra 10 anni scriverò un libro e sarà interessante, perché vi racconterò in modo postumo quasi, ovviamente dal punto di vista agonistico, quello che è successo in questa stagione e i favoritismi che la Mercedes ha fatto al mio compagno di squadra. Ecco, lì a me non piace quando fa così, cioè è un po' paraculo, cioè vuoi dire le cose, le dici, non dici niente, dille fra 10 anni. Io poi penso che una gran quantità di protagonisti di questo sport potrebbe scrivere un libro tra 10 anni raccontando la rava e la fava. Cioè questo qui è uno sport che ha dentro una quantità di elementi oscuri, di oscurità, di, cioè, mi viene in mente l'incidente di Alonso di 2 anni fa, sul quale abbiamo detto di, a memoria, del quale non si è mai saputo niente, no? Vi ricordate quella, sì, quella pausa, sì, nelle sì, prove, certo, quella, certo, certo. Sto dicendo che anche molti di noi che hanno visto le corse potrebbero scrivere fra 10 anni un libro beccando tre querele su cose viste, no, però su cose viste davvero, delle quali non si hanno le prove, ma piene di ombre. Cioè, non lo so se hanno favorito Rosberg o no, però se un pilota di una squadra che ti ha fatto vincere 2 mondiali continuerai a correre per loro, decidi o dentro o fuori, cioè, non mi piacciono queste cose qua, no? Magari potrebbe scriverlo anche Rosberg un libro su che cosa è successo dentro la squadra con Hamilton in questi anni, non lo so. Cioè, sono buoni tutti di dire queste robe qua. Sì, sì, certo. Ecco. Tra 10 anni è anche un'epoca da prescrizione, volendo, esatto, legale. Esatto. Giorgio, visto che c'è qui Giacomo Bagnasco che tra poco ci parla dell'Ital Rugby, abbiamo battuto il Sudafrica, gli Springboks, per la prima volta nella storia. Non posso credere che questo non ti abbia emozionato, nonostante tu sia una vecchia pellaccia. No, sono stato contento perché era una squadra che aveva bisogno di vincere. Devo dire che non ho mai visto, lo dico perché insomma è inutile fare, non ho mai visto il Sudafrica giocare così. Cioè, sembrava una squadra di proprio mediocre. È importante che sia successo. Il problema, secondo me, e dare continuità e dare consistenza a un sistema, e spero che si cominci. Io non condivido la politica della federazione sull'impostazione delle cose, delle crescite, le accademie, a me sì. Non ne condivido, però insomma sono contento che sia arrivata un po' di luce, perché questa squadra qua rischiava di non corrispondere ad una popolarità, un seguito crescente, molto rilevante, non corrispondeva a questo con dei risultati della soddisfazione, quindi ci voleva semplicemente. Grazie Giorgio, a presto. A voi, grazie. Giorgio Terruzzi. Allora, Giacomo Bagnasco, domani con Tonga? Allora, diciamo intanto che Giorgio ha già fatto un ragionamento da rugbista anche mentre parlava di automobilismo, dicendo queste cose o le dici o non le dici. Non te le tieni lì per 10 anni. Sono d'accordissimo sul valore del Sudafrica, più basso, decisamente più basso del solito, però per anni abbiamo detto, prendendo come pietra di paragone la Scozia, una squadra non lontanissima da noi, che loro quando affrontano una squadra più forte e si rendono conto che la possono battere, la battono. Noi per un motivo o per l'altro se eravamo andati vicini a battere l'Australia, l'Inghilterra, sì, eccetera, e poi qualcosa non funzionava, quindi questa cosa va sottolineata. L'Italia ha battuto il Sudafrica non era al massimo, pazienza, l'ho già detto, quando ci hanno battuto loro 101-0 non sono stati a chiederci se avevamo qualche problema. Bravo. Detto senti, questo, domani alle 15 Tonga. Diventa paradossalmente una partita forse ancora più importante, perché se tu non dai continuità dimostrando contro una squadra che una volta tanto è a te inferiore, che stai migliorando, che stai progredendo, sarebbe un piccolo guaio. Io credo che l'Italia sia favorita, che sia molto motivata, che Capitan Coraggio, vale a dire Favaro, che sostituisce Parisse, che è stato squalificato per una scorrettezza, sì, fatta nel campionato francese, sia la persona giusta. Dopodiché domani ci sono altri incontrini come Francia, Nuova Zelanda, Inghilterra, Argentina, Irlanda, Australia e Galles, Sudafrica, col Sudafrica che rischia addirittura di tornare a casa con 3 partite perse su 3 nella tournée, sì, europea. Sì, sì. In tutte interessanti, chiaro, Francia, Nuova Zelanda. Qualcosina in più. Noi però ci possiamo concentrare anche su questo Crédit Agricole Cariparma test match, sì, di domani alle 15 e poi avremo modo di parlarne. Certamente, grazie Giacomo Bagnasco, grazie Giovanni Capuano, che troveremo ovviamente domenica a questo 17. Microfono domenica alle 17. Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Alvise Falzone in redazione. Ciao a tutti.